Il dramma di questo incontro è quello che siamo in due, abbiamo scritto due lunghi testi e dobbiamo assolutamente invece ridurli in maniera concisa. Per fortuna c'è l'aiuto di un PowerPoint che ha preparato Monica Cioli e che riguarda però soprattutto la seconda parte, per fortuna, che è così con molte immagini e piacerà sicuramente più della prima parte. Giusto per dire, volevo che Giacomo fosse in mezzo a noi perché in fondo questo titolo l'ha dato lui. E vorrei ricordare appunto questo titolo, Modernismi del Novecento, in fondo evoca anche una lunga serie di discussioni che si sono fatte in queste aule, ecco, diciamo in questa aula di sopra, e ho in mente così attorno al termine modernismo, appunto modernità, a parte gli stessi interventi di Giacomo, però una vasta letteratura e protagonisti, prevalentemente poi filosofi che sono passati per queste sale della Fondazione, ma anche discussioni che sono avvenute con gli storici. Allora, questa è la ragione per cui il primo punto, se vuoi mettere la scaletta, Monica, scusa, diciamo, poi lì si ferma perché appunto la mia scaletta è questa. Il primo punto, quello sulla modernità per gli storici, lo tratto abbastanza velocemente, dando un poco per scontato le cose che ho scritto in questo testo e che ho scritto anche in altri testi, ed è per questo che lo do per scontato, in particolare nel volume sul Novecento. Ora, appunto, queste riflessioni non è che cambino, anche se sono passati 10 anni, però appunto pensando a che cosa è cambiato rispetto agli anni in cui abbiamo cominciato a discuterne in queste sale, credo che forse vale la pena appunto di ne viene fuori un ragionamento anche interessante, ed è quello che cercherò di fare. E cioè, dunque, per gli storici intanto, la settimana scorsa avete visto il lungo elenco di lezioni che già si sono tenute, la settimana scorsa in particolare c'è stata quella di Luigi Ferraioli su diritto e modernità, ecco, oggi compete a noi modernità per gli storici, ecco. Modernità per gli storici, dico subito che la codificazione che è stata data da Koselleck una ventina di anni fa, cioè quella della rottura che segnerebbe la modernità settecentesca tra esperienza del passato e aspettative del futuro, ha voluto dire un vero cambiamento di paradigma nell'analisi appunto degli storici, nel senso che questo ha spostato l'attenzione su aspetti culturali e tralasciando in gran parte invece quelli economico-sociali. Aggiungo a questo però che per gli storici, qui ho in mente proprio una lezione di E.P. Thompson in quest'aula, come dire, la rottura della modernità è doppia, è duplice, ed è naturalmente, ed è la rivoluzione, intesa prevalentemente come rivoluzione francese, e la rivoluzione industriale. Ecco, è la combinazione delle due che rende complicato, diciamo, questa transizione. La rende complicata perché, appunto, secondo il paradigma di Koselleck, la rivoluzione industriale crea aspettative che, appunto, la rivoluzione politica poi dovrebbe soddisfare, diciamo. E quindi, diciamo, questa combinazione è quella che ha cambiato maggiormente l'idea di modernità. Ecco, entrambe le rivoluzioni sono moderne, sia quella dei diritti che la rivoluzione economica, e stanno in qualche modo dal lato della luce, ecco, diciamo così. Ma tanto è vero che gli avversari di queste rivoluzioni sono gli stessi, e Marx codifica questa chiaramente, diciamo, questi avversari, stabilendo appunto la linea del progresso, che è la linea del progresso economico. E per questa ragione naturalmente condanna gli utopisti, così come sancisce che la comune è la comune del progresso e del futuro, perché c'è la classe operaia al potere, diciamo, insomma. Quindi questa prima sistemazione credo che sia importante da ricordare. Secondo punto, nel corso, e qui entro più, diciamo, nello specifico della tesi che vorrei dimostrare, nel corso dell'Ottocento, naturalmente, sempre da parte del socialismo prevalentemente, viene crescendo un controparadigma. È stato Luciano Cafagni, in un bel saggio sul futuro del passato, che ha appunto codificato questa duplicità, diciamo, no? Il paradigma della modernità è un controparadigma critico della modernità, che si impernia prevalentemente sul socialismo, nella fase poi della grande industrializzazione. Abbiamo paradigma e controparadigma, diciamo così, entrambe sul lato della modernità, entrambe sul lato della luce. Ecco, se noi ci spostiamo di qualche anno, arriviamo al 1914, lo vediamo poi con Monica, ecco, il dubbio sul futuro del progresso ormai domina tutta l'Europa e soprattutto guida i volontari che vanno appunto nel 14 in guerra per combattere questa società borghese. E a quel punto, possiamo dire, la modernità si separa dal progresso. Ecco, qui, insomma, ci sarebbe poi da fare tutto il discorso sul modernismo, che lasciamo da parte e che qui è stato fatto in queste sale, ripeto, da Franco Rella, da Remo Bodei, evocando ovviamente Benjamin Krakauer, anche un fiorire del pensiero filosofico italiano che ha avuto una sua originalità, come sappiamo, ecco, il cosiddetto anche pensiero debole, insomma, no? È un suo retantismo anche all'estero. Però a me qui interessa mettere in luce che cosa? Che in quella congiuntura, salvo la fiammata poi di Weimar, viene meno il paradigma del socialismo, cioè crolla, ecco, questo paradigma della modernità, che è critico degli eccessi della modernità, ma sempre collocato sul lato del progresso. Che cosa avviene? Sappiamo benissimo, nel corso del Novecento prevale una scelta di scorciatoie e di ansia di totalità. Ecco, su questo storici e filosofi si sono di nuovo incontrati nell'uso di questo termine totalità, che poi appunto è il totalitarismo, e nell'interpretare il Novecento alla luce di questa categoria della totalità. Di recente Mark Matsauer, lo storico che sicuramente conoscete, insomma, autore di una bellissima sintesi sulle ombre d'Europa, ha scritto su Lettere Internazionali un articolo, Il lato oscuro della modernità, dove ha insistito sul nesso tra violenza e Stato nel Novecento, osservando, cito, «La vera responsabilità di molti dei mali del XX secolo è la burocrazia onniveggente e i suoi impulsi repressivi finalizzati a controllare tutto, una burocrazia che è spesso connessa in modo più o meno stretto con la psicologia paranoica del singolo despota». In altre parole, noi abbiamo qua fuse due categorie weberiane, cioè il perfezionamento della macchina statale e il leader carismatico, che rappresentano il fulcro, in realtà, del regime totalitario novecentesco. Ecco, Weber, come sappiamo, temeva il grado di deresponsabilizzazione individuale che questa razionalizzazione avrebbe comportato. Ma va detto che sarà in realtà una lieve collega di suo fratello Alfred Weber, cioè Emil Lederer, per primo a stabilire che la caratteristica del totalitarismo è proprio quella della riduzione e annullamento della pluralità dei gruppi sociali e della, appunto, riduzione della società a massa amorfa e nella combinazione tra massa amorfa e leader in grado di formarla e dirigerla. E cioè, che cos'è, insomma, no? L'annullamento di quel controparadigma socialista, possiamo dire, ecco, no? È la sconfitta del socialismo, il totalitarismo, perché è appunto l'annullamento di tutte quelle reti solidaristiche che al socialismo si accompagnano. Ora, la tesi che vorrei sostenere è che nei paesi in cui è più fragile il socialismo gradualista, diciamo, e la fiducia nelle istituzioni democratiche, in prevalenza Italia, Germania, ma anche Russia, e il futurismo non a caso appunto, l'ansia modernizzante assume forme autoritarie e antiliberali che trovano nei movimenti artistici come il futurismo gli interpreti di un progetto che da artistico diviene rapidamente politico. A questa, diciamo, tesi, a questa lettura, quindi affiancherei nel caso dell'Italia l'idea che è nella sconfitta del socialismo e nella sua sostituzione da parte del fascismo, e parlo proprio di sostituzione, che noi vediamo il fattore storico decisivo della grande trasformazione fascista e corporativista. È infatti il vuoto creato dalla sconfitta del socialismo europeo che non solo sarà riempito, come sappiamo in politica il vuoto non esiste, da progetti organicisti e totalizzanti, ma che lascerà in Italia un'eredità anche molto monca, persino alla resistenza antifascista e dopo. Ed è appunto questo vuoto di eredità che sentiamo, diciamo, che è limitativo anche. Queste tesi consentono quindi una periodizzazione lunga del Novecento, con una cesura negli ultimi decenni dell'Ottocento e l'altra grande cesura negli anni Settanta del Novecento. Come sapete, sono le tesi poi di Charles Mayer. Ma le ho ricordate perché sarebbe errato quindi leggere il Novecento come guerre, diciamo, questi conflitti come guerre tra modernità e antimodernità. C'è una recensione di Golo Mann, figlio di Thomas, al libro di Lederer che citavo prima, che è durissima, a proposito appunto di una tradizione della sinistra che vedeva nel nazismo l'espressione dello spirito reazionario, ecco, no, del capitalismo. Come è possibile, scrive Golo Mann, definire come reazionario un sistema che prima di tutto distrugge ogni confine dinastico e poi persino nazionale, che sopprime tutte le tradizionali distinzioni di classe? È male, è odioso, certo, ma reazionario? Il fatto è, aggiunge, che esistono rivoluzioni buone e rivoluzioni cattive, e un'infinità di gradazioni in mezzo a questi due estremi, rivoluzioni che aumentano la libertà e rivoluzioni che la uccidono. Quindi, come dicevo, nel Novecento la distinzione tra destra e sinistra non passa più tra modernità e antimodernità, perché tutto a quel punto è moderno, ma attraverso le diverse visioni del moderno e soprattutto dei suoi tempi di attuazione. Il Novecento è dunque il secolo della massima esplosione delle forme del moderno, e quindi, in buona sostanza, anche di estrema crisi di significato del moderno. Non è un caso, e qui diciamo un po' il cerchio che poi concludo che riprenderò alla fine dopo aver illustrato però il caso italiano, che la conclusione di quel ciclo e il processo di globalizzazione connesso consente di ripristinare il nesso tra modernità e progresso. In che senso? Mi ha molto colpito, di recente, l'avrete notato anche voi, è stato pubblicato un fotogramma dall'alto del pianeta Terra, che è una specie di quadro pointillista in cui i continenti o parti di continenti non moderni appaiono sprofondati nel buio della notte. Le reazioni sono state di stupore, meraviglia, reazione dei verdi, dei critici dello sviluppo ineguale. Ma, se voi avete notato, nessuno ha contestato il binomio che più luce è uguale più modernità, quindi più progresso è uguale più modernità, che viene riconfermato dal mondo globalizzato. Questo mi ha richiamato alla mente testi ottocenteschi, a partire da Baudelaire o quello di Jules Verne sulla Parigi del XX secolo, in cui invece la luce è solo l'altra faccia dell'ombra. Ecco, no? E quindi diciamo è come se, a mio avviso, questo consenta di vedere il chiudersi di un ciclo, ma su questo mi rivolgo agli esperti del moderno che abbiamo qua davanti e loro ci sapranno dire. Ma in ogni caso in Europa non è stato così e il Novecento invece è dominato dalle ombre e solo oggi possiamo pensare a una elettricità senza cannoni, ecco, no? come appunto simbolo di moderno. Veniamo al caso italiano e mi sposto su fascismo e modernità. Anche questo naturalmente è un topos che si porta dietro una letteratura sterminata. Voglio però citare brevemente due, a mio avviso, alternative che si pongono nella lettura del tema del fascismo come modernità, che è stato oggetto, badate, di contestazioni forti, interessanti, soprattutto in occasione di una mostra al Colosseo, appunto fatta più di 20 anni fa e su cui prese posizione uno storico come Tim Mason. Però io qui vorrei ricordare questo. È stato soprattutto Emilio Gentile a insistere sul totalitarismo come esperienza di modernità alternativa alla modernità liberale democratica. E questa, diciamo, è una lettura, quindi il totalismo, come dicevo prima, insomma, no, tutto è modernità, anche il totalitarismo è modernità ed è forma alternativa di quella democratica. Ma Gentile lavora sul partito milizia, lavora sull'ideologia, esiste però un'altra forma di lettura del fascismo, o meglio dell'Italia tra le due guerre, in cui compare il tema della modernità. E io penso che un classico come quello di Acquarone sull'organizzazione dello Stato totalitario, che è del 1964, contenga in sé già quello che vorrei dire, e cioè segnali, è la prima grossa ricerca di archivio, diciamo, su quegli anni, le trasformazioni profonde appunto dello Stato, dell'amministrazione, e fortemente segnate dal nuovo ruolo del partito politico e dalla costruzione del corpo amministrativo dello Stato italiano di nuovi soggetti istituzionali che sono in realtà molto vicini a quanto stava avvenendo negli altri paesi europei. E quindi vengo a questo punto, e cioè esiste una modernità che si fa luce negli anni del fascismo, che non è alternativa, che non è democratica, ma che segue delle piste, o comunque diciamo non è contraria a delle piste su cui si muovono altri stati europei. Sul fascismo, diciamo, e su questi aspetti, io ho isolato due elementi che pongo alla vostra attenzione e che trovate nello schema che avete alle spalle, che ho alle spalle. Il primo elemento è forse per certi aspetti noto, ma forse oggi anche ci sorprende per la sua attualità. E cioè appunto le novità che porta il fascismo, insomma, no, appunto. Il primo è certamente il nuovo linguaggio, proprio il balzo di linguaggio della politica negli anni appunto che precedono il fascismo, che annunciano il fascismo, capacità, diciamo, il nuovo lessico, è nuova retorica, e si produce soprattutto, vedremo attraverso gli esempi che ci porta Monica Cioli, soprattutto nei movimenti di avanguardia artistica letterari, in rivolta contro le correnti borghesi e moderate. Ecco, sono movimenti vari, diversi, che hanno in comune un nemico, e questo nemico è appunto, come sappiamo, la borghesia, ma che è soprattutto il socialismo. Quindi vi è in comune uno stile che è stato definito appunto il dannunzianesimo, è stato Nino Valeri ancora a scrivere già un libro fantastico su questo. Quindi muta il linguaggio, ma anche la retorica del discorso. Ricorda Prezzolini, è una citazione che trovo molto intelligente, che scrive nei suoi libri di ricordi degli anni 50. Ai tempi del Leonardo e poi della Voce non c'era nessuno che non avesse in tasca il piano di un'Italia rifatta a suo modo. La scarsa simpatia per le istituzioni democratiche era comune tra noi. Nella Voce direi che si accettava la democrazia come una condizione di fatto, ma non come un ideale. C'era e bisognava adattarsi, ma senza entusiasmo. Se qualcuno avesse potuto trasformare l'Italia a modo nostro, violando la Costituzione e i diritti dell'uomo e le elezioni e la libertà della stampa, credo che nessuno avrebbe esitato un momento. Il problema non si presentò mai fino a che non si manifestò col fascismo. E allora apparve che il frutto della Voce stava da una parte come dall'altra. Come disse poi bene Malaparte, la Voce aveva preparato il fascismo e l'antifascismo. E su questo terreno del linguaggio sappiamo, attraverso poi Victor Klemperer, Cassirer, il linguaggio nazista, quanto appunto il mutamento del linguaggio poi condizioni anche coloro che si oppongono a questi regimi, è come se non trovassero più appunto le parole adatte, ecco, no? Perché lessico e retorica hanno completamente cambiato. Ecco, è abbastanza interessante notare, quindi diciamo l'altra cosa importante da notare è che questo lessico e questo mutamento di lessico, coniugandosi con la Prima Guerra Mondiale, l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, coincide anche con un ricorso alla violenza. Cioè, paradossalmente, violenza e propaganda cambiano e nascono insieme nel corso della Prima Guerra Mondiale e vengono accettati come tali e come un dato di fatto nel dopoguerra. Se noi prendiamo, appunto, io poi uso una biografia che per me è abbastanza esemplare, di quella un po' mi servo, che è quella di Camillo Pellizzi, intellettuale fascista e poi fondatore della Rassegna Italiana di Sociologia, che visse tra il 1896 e il 1979. Attivissimo negli anni 20, scrive appunto alcune dei testi più di retorica più significativa, diciamo, di questo mutamento di cui sto parlando. Ma mi ha colpito una cosa, siamo negli anni 20, ecco, noi abbiamo nel 22 Walter Lippmann, che appunto scrive il suo testo, appunto il suo classico sull'opinione pubblica, chiedendosi, interrogandosi su come rimediare ai rischi che appunto l'opinione pubblica non possa leggere la realtà perché appunto falsificata, no, dalla propaganda. E dall'altra invece questi giovani giornalisti intellettuali, ma intellettuali veri, perché poi sono, che so io, collaboratori dell'Enciclopedia Treccani, sono filosofi, sono tra i riformatori della scuola, collaborano appunto alla riforma Gentile. Ecco, questi intellettuali invece sono veramente alle prese con la necessità di, come dire, di inventare nuovi linguaggi. Badate, sto parlando di Pellizzi che collabora con Longanesi, che fonda l'Italiano, che è un giornale, poi fonderà l'Omnibus, che sta alla base di tutto il giornalismo migliore, sia il Mondo che l'Espresso, nato nel dopoguerra. Quindi, diciamo, queste sono cose importanti. Ecco, e appunto abbiamo l'America così da un lato e questi personaggi dall'altro. E questo mi sembra interessante. Riprendo qui un discorso che è quello del rapporto che tutto questo ha con la sconfitta del socialismo. Io ho insistito e vorrei insistere su questo perché credo che nella storia del fascismo, forse ci sono di più, ci sono forse nel classico di Angelo Tasca, ecco, diciamo, questa tema della sconfitta del socialismo, del vuoto che lascia il socialismo, non è stato abbastanza messo, sottolineato. Ecco, per esempio, facciamo per esempio questo caso. È vero, l'Italia inventa il fascismo, però l'Italia ha anche un partito socialista che è l'unico nella rete dell'Internazionale Socialista che non vota i crediti di guerra come gli altri partiti socialisti, quello francese, tedesco. Certo, è ancora l'Italia ancora neutrale, ma diciamo è il punto, il non aderire, il sabotare. Voglio dire che se si leggono questi testi fascisti del 18-19, in cui il crinale tra la scelta verso il socialismo o verso il fascismo è ancora lì, presente, questo fatto di un partito socialista che può essere accusato di non aver, di non saper interpretare i sacrifici eroici compiuti dai giovani e soprattutto dai giovani intellettuali e studenti durante la guerra, credo che indebolisca particolarmente, ecco, il Partito Socialista Italiano rispetto agli altri, nel senso che divide questo popolo e fa sì che anche il fascismo si faccia interprete di voci popolari. E questo è, come dire, il dato di fatto di questo, del nostro fascismo. Quindi direi che questo, insisto su questo, cioè sul fatto che molto consapevolmente questi intellettuali dicono abbiamo sconfitto il socialismo, che si è lasciato sconfiggere, che non ha saputo capire, soprattutto nel dopoguerra, ma il nemico non si deve solo sconfiggere, bisogna sostituirlo. Ecco, allora quello che io ritengo è che c'è nel fascismo una vena popolare che si rifà a degli elementi che il fascismo eredita, diciamo, sconfigge da un lato il socialismo, ma anche eredita dal socialismo. E badate, questa presenza, diciamo, che era poi forte nel nostro paese del socialismo e di questa cultura che è socialista ma anche cattolica, ma che è una cultura profondamente appunto popolare, volta alla difesa degli interessi popolari, badate che diciamo continua. E così come il fascismo nel primo dopoguerra cerca di impadronirsi degli strumenti e dell'eredità culturale del socialismo, badate che dopo il 45 la stessa cosa avverrà, e cioè bisognerà che i nuovi partiti si impadroniscano di ciò che il fascismo nel frattempo aveva costruito su questo terreno popolare. Arrivo a questo. Procedo, scusate, è tutto molto schematico e lo capisco, però procedo ancora un altro pezzo. Quello che voglio dire è che il caso italiano presenta una, diciamo, originale costruzione del paese, ricostruzione del paese tra il 1900, appunto il 1910 e il 1960 e 70, che noi possiamo leggere da due punti di vista, dall'alto e dal basso. Dall'alto è stato già letto e lo conosciamo, e cioè il dirigismo economico. Inutile soffermarsi su questo, di solito si insiste sugli anni 30, in realtà sappiamo che questo dirigismo economico è nato già prima, è nato con l'INA nel 1913, ha, diciamo, una sua accelerazione negli anni 20 ancora più che negli anni 30. Procede, come sappiamo, fino appunto a Sinigaglia, Mattei, partecipazioni statali dopo la guerra. Quindi abbiamo questo pezzo che coincide, ripeto, con questa epoca appunto dell'industrializzazione di massa fordista a cui accennavo nell'introduzione. Esiste però un altro punto di vista, che è quello, possiamo chiamarlo dal basso, che è quello attribuibile, diciamo, al termine corporativismo. La letteratura di solito insiste nel dire il primo è moderno, il secondo è antimoderno. Ecco, di nuovo qui farei qualche pausa, diciamo. Ecco, in più il primo sta in piedi perché c'è anche il secondo. Che cosa vuol dire il discorso del corporativismo? Beh, vuol dire un forte intervento nel tessuto delle relazioni industriali del paese ai fini di una conciliazione sociale. E quindi con una forte attenzione sia agli aspetti certamente, come dire, istituzionali, la costruzione delle corporazioni, ma anche agli aspetti giuridici. Tanto è vero che è solo di recente che su questo si è posta l'attenzione. Esiste un volume di una giurista che si chiama Irene Stolzi, che appunto ha scritto un libro sui poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista, mostrando, diciamo, la profondità della elaborazione che viene data in questi anni 30 sul terreno contrattualistico, giuslavorista. Guardate, è una tradizione che rimane, che rimane. Nel 1956 Gino Giugni, ufficio studi della CGIL, scrive un saggio che a mio parere è rimasto lì, nel senso che io non conosco poi elaborazioni di ricerca su questo saggio, in cui interviene nel dibattito, siamo nel 56, voi capite la crisi sindacale del momento, e rimprovera appunto ai sindacati dell'epoca di essere troppo aggrappati a qualche cosa che cos'è? Che è la legislazione fascista. Cioè, gli dice, a proposito delle polemiche con le human relations che stavano appunto avanzando grazie al piano Marshall, eccetera, no? L'irrigidimento su una struttura contrattuale e rivendicativa che rappresenta l'estremo retaggio dell'esperienza corporativa rivela una mancata presa di coscienza da parte del sindacato del fatto che le relazioni industriali sono oggi una realtà molto più vasta e multiforme di quanto non possa essere disciplinata nei paragrafi dei contratti di categoria, ma richiedono l'individuazione di una serie di tecniche di rapporti elasticamente adeguati alle singole situazioni che implicano una profonda revisione dei metodi e degli atteggiamenti tradizionali delle rappresentanze operaie. Badate, non è che se oggi noi sentiamo parlare di gabbie salariali o di revisione delle gabbie salariali siamo poi così lontani da questi temi, ecco. Cioè, io credo che questo cemento culturale che si fonda allora, che è da un lato l'intervento dall'alto, per cui appunto appena succede qualche cosa, per carità, chiamiamo lo Stato che intervenga, dall'altro un appellarsi a una legislazione totalizzante, diciamo, no? E forzata e anche benemerita, perché voglio dire, i contratti nazionali di categoria nascono negli anni 30, diciamo, si affermano negli anni 30. Ecco, la mancanza di elasticità, tutto questo credo che sia ancora di grande attualità. Sto rapidamente passando oltre. Un ultimo passaggio che mi interessa è quello che ho chiamato la rivoluzione corporativa come rivoluzione manageriale. Qui non è un ragionamento che faccio, è semplicemente un'informazione. E cioè, tenendo conto del fatto che questo signore Pellizzi nel 1949 pubblica un suo testo che si chiama Una rivoluzione mancata, in cui riesamina appunto la sua esperienza fascista, e la riesamina alla luce del libro di Burnham, La rivoluzione dei manager, la rivoluzione manageriale, mi sono un po' divertita a vedere come in realtà negli anni 30, quando noi pensiamo al successo del corporativismo, che è appunto che tocca varie realtà, ecco, il corporativismo, intendiamoci, ha una sua versione moderna, e poi alle versioni più cattolico-tradizionaliste, Otmar Spahn, lo stesso Salazar, la Spagna dei Fuegos, ecco, no? Ma c'ha la sua versione moderna, ecco, la sua versione moderna è la rivoluzione manageriale, cioè è l'idea che appunto la crisi del primo dopoguerra, la crisi industriale, vada affrontata con i tecnici, con la tecnocrazia. Questa è l'utopia anche di molti dei fascisti che mettono in piedi questa rivoluzione corporativa. E Pellizzi è quello che, avendo poi tradotto nel dopoguerra, conoscendo il libro, perché lui viveva in Inghilterra da subito appena uscito, inscrive, diciamo, la storia del corporativismo dentro questa rivoluzione dei manager. Ma la cosa che è interessante da vedere è che questo, il termine rivoluzione in questo senso, è molto usato negli anni 30. Spesso quando insegno lezione ci sono i due capitoli di De Carpolani, La grande trasformazione, dove parla di conservazione degli anni 20 e rivoluzione degli anni 30. E allora appunto chiedo agli studenti, perché? Appunto, perché la vera rivoluzione è quella degli anni 30, cioè è la rivoluzione delle strutture, la rivoluzione delle, appunto delle regolazioni, è la rivoluzione corporativa, ecco, no? Cioè gli anni 20 sono un tentativo di restaurare quello che c'era prima, insomma. Ecco. Ora, Simone Weil, nel 33, è la prima che si accorge di tutto questo e dice appunto, constata che esistono sorprendenti affinità sia con lo stalinismo che col fascismo di una serie di movimenti contemporanei nati nel dopoguerra, il primo dopoguerra, e lo scrive a proposito della rivista tedesca di Tat, appunto dove si raccomanda l'alleanza militare tra Germania e URSS, siamo nel 33, ripeto, di quella francese Plan, e nonché di quel movimento tecnocratico che si dice aver invaso gli Stati Uniti, con influenza sulla cerchia di intellettuali della Columbia, che invoca una dittatura economica esercitata sovranamente dai tecnici in una economia nazionale chiusa, un fenomeno del tutto nuovo e tipico della nostra epoca. Ecco, il libro di Burnham, La rivoluzione dei manager, in cui mette assieme appunto Germania, URSS e Stati Uniti, in questa idea che appunto i manager stanno sostituendo i proprietari, diciamo, gli imprenditori proprietari, è del 41. Insomma, qui non sto a soffermarmi su tutto quello che c'è dietro in tutto questo, ma mi sembra che questo si prolunghi poi negli anni 40, tanto è vero che la rivoluzione dei manager, il libro di Burnham, è poi oggetto di forti dibattiti in Francia nell'immediato dopoguerra, su cui intervengono Friedman, Esprit, la rivista Esprit, che peraltro era venuta in Italia ai convegni sul corporativismo, aveva partecipato ai convegni sul corporativismo. Ecco, qui mi sembra interessante perché appunto quando nel 49 Pellizzi scrive appunto Una rivoluzione mancata, c'è ancora appunto questo clima culturale, questo zeitgeist. Guardate, io posso abbastanza rapidamente superare l'altro punto, che è una rivoluzione appunto mancata, e che è qui, diciamo, riprendevo il libro di Pellizzi, e cito solo questa frase: ma il fascismo italiano fu anche la manifestazione locale di un fenomeno storico molto più vasto, dotato di caratteri assai precisi, e non abbiamo trovato un'opera che meglio riassumesse e interpretasse tali caratteri, specie nei riguardi della materia da noi trattata, del volume dell'americano James Burnham intitolato La rivoluzione dei manager. Ecco, l'interesse, diciamo, di questo libro è questo, come ho detto prima. Il conflitto sociale di questi anni, primo dopoguerra, è comune a tutti i paesi europei. Ha origini comuni, ma conosce tentativi di soluzioni diverse, in ragioni della storia dei singoli paesi, prima dell'entrata in guerra. E qui allora mi riallaccio di nuovo al discorso sul socialismo, cioè in fondo il successo, diciamo, la centralità, ecco, di questo, del tema del corporativismo, ha molto a che fare con l'idea che con questo si cerca di riacchiappare questa tradizione. Badate, un personaggio come Pellizzi, che vive in Inghilterra, frequenta i Fabiani, frequenta il Guild Socialism, pubblica in una collana di Cole, diretta da Cole, cioè nei primi anni 20 questa vicinanza è molto forte, non a caso a quel tipo di correnti politiche. È il ruolo appunto dei gruppi di competenza, è il ruolo che sta crescendo dei tecnici, e lui osserva, badate, che su questo il Partito Socialista ci aveva già preparato, tanto è vero che cita Ostrogoski, Michels, a questa, diciamo, prevalere appunto dei competenti. Un'ultima osservazione, e qui è il fallimento di questa operazione. Il fallimento di questa operazione è nell'avere messo insieme, confuso, diciamo, i manager politici e i manager tecnici. La descrizione che ci viene fatta appunto del fascismo, di questa rivoluzione corporativa e del suo fallimento, è appunto il fallimento che deriva dalla idea stessa dei manager di Burnham. Ed è, guardate, è il fallimento appunto dei regimi totalitari moderni, i regimi totalitari moderni. Per Burnham i manager, si ricorda appunto Pellizzi, non sono tecnici, cioè lavoratori specializzati in un campo produttivo, ma sono uomini dotati di capacità direttive. Il prototipo è il dittatore politico, l'alto burocrate, l'imprenditore d'affari. Ecco, il fascismo può essere letto alla luce dell'applicabilità di questa teoria. E infatti, anche nella provinciale regime di manager dell'Italia fascista, si produsse il fenomeno di una tendenza alla supremazia del manager politico su quello tecnico. Vedete, eccoci qua, che questo manager politico, che cos'è poi? È un tecnico della retorica. È un tecnico della retorica. E qui riprendiamo il tema che ricordavo prima. È un tecnico che sa far leva sull'opinione, cioè su un aspetto della vita dell'uomo non riducibile ai quadri valutativi della tecnica specifica. Pellizzi stesso scommette su questo, fondando appunto un collegio per la formazione di quadri e appunto costruendo sedi per la formazione delle elite. Lui stesso però nel libro a un certo punto si chiede, ma non c'era qualcosa già di insano in tutto questo all'origine, visto che poi appunto questo diede luogo a un dominio dei tecnici forzato, e cita esplicitamente, siamo nel 49, i casi della Germania e dell'URSS. Si ritorna qui, e sto avviandomi alla conclusione, alla totalità, al tema della totalità, a quella che fu da parte dei leader politici del fascismo non una rivoluzione mancata, ma, per usare un'altra espressione che Pellizzi usa, un'operazione chirurgica sbagliata. Pellizzi ricava la convinzione di non poter più entrare in politica e che i modi per influire sul progresso sociale e economico passassero piuttosto dalla diffusione di una nuova cultura industriale a cui doveva contribuire un lavoro sociologico, è quello a cui si dedica, molto pragmatico e sul campo, da organizzare con agenzie internazionali, istituti universitari, opponendosi a nuove pulsioni centralizzanti e soprattutto stataliste. Ecco, credo, e sono all'ultimo punto, che nulla come la seconda parte della vita di Pellizzi sia più rappresentativo della sconfitta del disegno totalizzante che aveva accompagnato e segnato fino ai suoi esiti più tragici il tentativo di sconfitta sostituzione del socialismo nella prima metà del secolo. La rivincita del socialismo passa negli anni 40 attraverso la conciliazione in chiave antinazionalistica e universalizzante delle conquiste delle due rivoluzioni della modernità da cui eravamo partiti, progresso economico e libertà. L'esperienza del passato rende più avvertiti sui pericoli di chiusura e sappiamo bene come anche nel nostro paese, grazie al contributo di ideologie diverse, procede alla costruzione di un tessuto democratico e socialista che ha raggiunto livelli di coesione nazionali mai prima raggiunti. In un libro recente, Giuseppe Berta parla di eclisse della socialdemocrazia, intendendo per socialdemocrazia un forte quadro giuridico per l'impresa privata, un'economia sociale di mercato. L'uso del termine eclisse indica invece che questa forza c'è stata nel dopoguerra, ma non avrebbe retto l'urto con il turbocapitalismo, come lo chiama lui, e la crisi del socialismo europeo sarebbe la conseguenza del suo essersi adeguato sul primo. Tornerei invece in conclusione con una nota più ottimistica, quella immagine del globo illuminato e al contrasto che quei punti di luce esaltano rispetto alla parte sprofondata nel buio. Sappiamo che oggi non sono più possibili reazioni di chiusura nel proprio cono di luce, o almeno lo speriamo, e neppure di rimpianto romantico dell'ombra. Esiste tutta una stupenda letteratura sull'ombra romantica. Il vento del progresso ci spinge avanti, consapevoli del nostro passato novecentesco, noi guardiamo indietro come l'Angelus Novus di Clay, ma i decenni delle conquiste della socialdemocrazia ci hanno insegnato che dietro di noi non lasciamo solo macerie. Grazie della pazienza.